Ma la porta del tuo giardino è il mare. La batte il sole, tu non apri, ascolti i sassi rotolare alla risacca, lo stesso moto che non sa scagliarli, non li raccoglie in una montagna, e tintinnare tante campanelle dalle barche che tirano gli ormeggi ad afferrare per la coda i venti. Appesa al fiore dell'origano, una farfalla azzurra, assetata, e lampi contro luce di chiarità terrestre i limoni, e frammisti ad archi senza peso, altri frutti, acerbi nella calura del cielo. Le nuvole asciugano l'odore del silenzio all'uscio delle case. Però la porta del teu jardí és el mar, i truca el sol, i tu no obres, escoltes els còdols rodolant la ressaca, aquest moviment que no el sap escatar, no en fa un munt, i tringar tantes campanetes de les barques que arrosseguen els ormeigs per aferrar per la cua els vents. Penjada a la flor de l'orenga una papallona blava, assedegada, i llams a contrallum de claredat terrestre les llimones i barrejats amb arcs sense pes altres fruits aspres en la calitja del cel. Els núvols eixuguen l'olor del silenci, el brancal de les cases.